Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Buon pomeriggio. Era un buon pomeriggio, un po' americano, perché viene per l'appunto questo buon pomeriggio dal presidente Obama, che sapete che ieri sera, ve l'ho raccontato in diretta, è sbarcato in Italia e oggi ha fatto tutto il suo giro di incontri dal Papa, poi soprattutto con Renzi e naturalmente Napolitano, e si è sforzato di dire almeno buon pomeriggio in italiano. E poi c'è invece Renzi che si è un pochino americanizzato. Al presidente Obama vorrei dire con grande forza che quel messaggio che ha caratterizzato the first message, yes we can, e che tutti noi ricordiamo come un messaggio di possibilità e potenzialità, oggi vale anche per noi in Italia. Perché in Italia finalmente vogliamo dire che è possibile cambiare le cose senza bisogno che ce le chieda qualcuno dall'esterno. Allora il cambiamento, le riforme strutturali che noi stiamo facendo sono le riforme che possono tornare a dare un elemento di speranza che le cose davvero cambino. Insomma, ha detto yes we can, che era stato il grande slogan della campagna elettorale di Obama quando poi era diventato presidente per la prima volta, e quindi anche Obama dice yes we can pure in Italia. A proposito del Jobs Act, anche quello l'ha preso da Obama e quindi ha fatto sentire questa sintonia. C'è stata insomma una profonda sintonia tra i due oggi, tranne forse che su Italia alla difesa, poi ne parleremo di questo argomento. E c'è anche un altro tema: per il 58,1% degli italiani sarebbe positivo uscire dall'euro. Questo è quanto emerge dal sondaggio realizzato da Data Media Ricerche per il quotidiano Il Tempo. Poi è una cosa che sottoporrò anche a Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, che sentirò poi nello spazio Europa. Voi cosa ne pensate? Voi sareste disponibili a uscire dall'euro, come risulta da questo sondaggio, come il 58,1% degli italiani? C'è sempre la pagina Facebook, lo sapete, per voi di Effetto Notte, oppure i messaggi SMS al 349 238 6666. E adesso, come sempre all'inizio, vi vado a raccontare una sintesi della giornata. L'incontro a Roma, Obama dice mi fido di Renzi, ho fiducia nelle riforme italiane. Il presidente americano stamattina ha incontrato il Papa, poi il pranzo al Quirinale e stasera cena in un ristorante romano. Scuola, la ministra Giannini presenta in Senato le linee guida dell'istruzione, i precari sono 500.000, stasera sarà qui a Effetto Notte. Industria, la ministra Guidi annuncia la costituzione di una task force. Calabria ha condannato a 6 anni il presidente della regione. Clamorosa svista al largo delle Canarie, è precipitato un aereo, ma in realtà era una nave. E calcio con Inter Udinese a San Siro, si completa questa sera la 30ª giornata di Serie A. Partiamo quindi da questo storico, si spreca questo aggettivo, storico incontro a Roma tra il presidente del Consiglio Renzi e il presidente americano Obama. C'era anche lì presente, non so se ha stretto la mano a Obama, Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera. No, purtroppo non ho avuto la fortuna. Però Roberta, sicuramente un incontro storico, non tanto per il presidente Obama a Roma, in quanto già è venuto altre volte, ma storico perché comunque il momento del nostro paese è storico, ma anche le tante crisi internazionali, e poi c'è questo nuovo governo che in teoria ha molte speranze di poter cambiare il nostro paese. E tra l'altro mi ricordo, perché può piacere o non piacere Renzi, per carità, però forse era stata una frase di Casini di qualche tempo fa, quando ancora Renzi non sembrava così vicino alla presidenza del Consiglio e averla poi agguantata, che aveva detto mi immagino un giorno Renzi che stringe la mano ai maggiori leader europei, un po' sorridendo. Era stato lui, tu che ricordi bene i fatti della politica, Vincenzo? Sì. Oggi diciamo quindi, è stata una bella soddisfazione per Renzi, sarà ringalluzzito, no? Stringendo la mano. Assolutamente, un'ironia di qualche tempo fa, quindi di un politico importante, oggi si è realizzato evidentemente un sogno di Renzi, ma devo dire una conferenza stampa con grande sintonia tra i due protagonisti. Renzi ha messo in campo tutta la sua energia, soprattutto nel difendere le grandi potenzialità che ha il nostro paese di ben figurare sulla scena internazionale. Renzi ha ricordato quali sono i nostri punti deboli, il grande debito che ha il nostro paese, ma anche, torno a dire, le grandi potenzialità e quindi il ruolo che può giocare in Europa, in alleanza con gli Stati Uniti di fronte ai grandi problemi internazionali. Ricordavi nel presentare la giornata di Obama a Roma, l'unica divergenza che forse c'è stata tra Renzi e Obama, quella relativa alla difesa, spesa, no? per... per la difesa. Nello specifico Renzi ha fatto capire che compatibilmente con gli impegni internazionali il governo sicuramente metterà mano alla spesa, chiaro il riferimento agli F-35. Obama invece ha replicato dicendo che l'Italia ha tutti i diritti di fare i suoi risparmi sulla spesa, ma vi sono alcuni interventi che sono irrinunciabili ed è parso a tutti il riferimento agli F-35. Quindi vedremo come si andrà a finire su questo tema. E Obama ha anche ricordato che è tempo che tutta la difesa dell'Europa non sia solo sulle spalle degli Stati Uniti, come a dire anche voi fate la vostra parte. Grazie. Il succo. Grazie Vincenzo Miglietta. Stamattina Obama è andato, come dicevo, anche in visita privata dal Papa, poi a pranzo da Napolitano. Profondamente commosso da Papa Francesco, dalla sua compassione, dal suo messaggio di inclusione nei confronti dei poveri e degli ultimi della terra. Obama lo ripete più volte durante la conferenza stampa a Villa Madama. È meraviglioso incontrarla, del resto aveva esordito il presidente americano all'inizio della sua visita in Vaticano, una visita ad alcuni definita storica tra il primo Papa latinoamericano e il primo presidente degli Stati Uniti afroamericano. 50 minuti è durato il colloquio privato, grandi sorrisi, battute, poi scambio di doni con un momento di sottile imbarazzo quando l'astuccio delle medaglie donate da Francesco ha ceduto e le monete sono finite a terra. Da Obama invece semi di frutta e verdura provenienti dall'orto della Casa Bianca e l'invito a Francesco a venire presto negli Stati Uniti. Sul tavolo, oltre ai temi della pace del mondo e della povertà, i principali dossier internazionali dall'Ucraina al Medio Oriente all'Afghanistan. Poi l'incontro durato oltre 2 ore con Napolitano, che Obama definisce uno statista di alto calibro di cui l'Italia può sentirsi fortunata. Un lungo e cordiale colloquio, dirà una nota del Quirinale. Seguirà il faccia a faccia con Renzi e poi il momento del relax, la visita privata al Colosseo e infine la cena in un ristorante tipico della capitale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Serata dunque anche da turista per Obama in un Colosseo che ha visitato, surreale, accompagnato da Barbara Nazzaro, direttrice tecnica dell'anfiteatro, e nel frattempo era naturalmente sparita tutta la varia umanità che circonda in genere il Colosseo, quindi i centurioni, i figuranti vestiti da antichi romani, camion, bar, ambulanti abusivi. Questa sera l'avete sentito, quindi cena in un ristorante mantenuto ovviamente segretissimo, anche se in realtà sembra che qualche indiscrezione fosse venuta fuori, poi cercheremo di capire. Per Roma è stata, come si può immaginare, una giornata ad alta tensione, non ancora conclusa, spostamenti difficili, telefoni in tilt, ma anche molta curiosità. Allora sentiamo a questo proposito le voci dei turisti raccolte da Francesco De Remigis. Ne abbiamo provati a prendere due, il 71 e il 492, ma nessuno dei due è arrivato. Poi ho chiesto anche a uno degli autisti che era lì alla fermata, ho detto no, te conviene andare a piedi. Ho provato 200 volte e non sono riuscito, no, è arrivato nessun autobus. Poi ho provato a prendere la metro, ma anche quella è chiusa, allora non so più che cosa fare perché devo lavorare. Sì, c'era l'avviso che alle 13 chiudeva, fino a orario da destinarsi. Adesso giriamo a piedi, tanto qua da qua si può arrivare un po' ovunque, ed Roma è bella anche da visitare a piedi perché viene da fuori. Abbiamo visto tante forze dell'ordine, quello sì. Just by foot. By foot. On foot. Yeah, by foot. E domani Obama parte alla volta di Riyadh, cioè il tour del presidente dominato, come sappiamo, dalla crisi ucraina. A proposito di Ucraina, ci sono 100.000 soldati russi alle porte, questo è l'allarme di Kiev, e arriva intanto un piano di aiuti dal Fondo Monetario Internazionale. Rimaniamo all'estero con la Turchia, che domenica va al voto. Intanto il primo ministro Erdogan mette il bavaglio anche a YouTube dopo Twitter. Sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Il simbolo del partito AKP del premier Erdogan è una lampadina che irradia la luce dell'Islam conservatore, ma il primo ministro turco questa volta ha scelto di oscurare con il velo pesante della censura i social media. La vigilia elettorale in Turchia, dove domenica si voterà per le municipali, si sta infuocando. Il test delle urne è considerato una sorta di referendum sul premier Tayyip Erdogan, travolto dagli scandali della tangentopoli turca, ma ancora in testa, almeno secondo gli ultimi sondaggi. Il bavaglio del sultano Erdogan dopo Twitter colpisce così YouTube e i media del movimento Hikmet di Fethullah Gülen, l'imam in esilio volontario negli Stati Uniti, accusato dal primo ministro di complottare contro il governo. governo. Le autorità per le comunicazioni ha bloccato YouTube e ritirato la licenza dell'emittente Canal Turk, vicina alla confraternita di Gülen. Al termine di una maratona elettorale, Erdogan ha perso la voce, quasi una nemesi per chi vuole tappare la bocca a quelli che non la pensano come lui. E c'è ancora, per quanto riguarda l'estero, una notizia che riguarda un clamoroso errore dei servizi di emergenza nelle isole spagnole delle Canarie. L'ente aveva infatti annunciato che un Boeing 737 era precipitato nell'Atlantico, in prossimità delle isole spagnole, per l'appunto, a 2 miglia dalla costa della Gran Canaria. In realtà gli stessi servizi di emergenza hanno poi ammesso di avere, diciamo così, scambiato una nave o un rimorchiatore per un aereo precipitato in acqua. Adesso parliamo invece del piano per il rilancio dell'industria in Italia. Lo ha annunciato la ministra dello sviluppo economico Federica Guidi, intervenuta in un'audizione alla Camera. Credo che in Italia sia mancata, forse fino ad oggi, una politica industriale. Quindi una delle prime cose che io voglio cercare di impostare nelle prossime settimane è la costruzione di un gruppo di lavoro, una task force, chiamiamola come vogliamo, composta da alcune persone, economisti, politologi, insomma, comunque persone che riescono a creare sostanzialmente un industrial compact italiano e quindi lavorare sulla falsa riga dell'industrial compact europeo per arrivare a dare delle priorità e quindi stabilire delle linee di priorità su un industrial compact italiano. E adesso la sentenza d'assoluzione di Claudio Scajola, di recente, no? C'è stata, e dell'imprenditore Diego Anemone, che non è condivisibile. La Procura di Roma ha argomentato in questo modo, in 7 pagine, il ricorso in appello presentato oggi contro la sentenza di assoluzione dell'ex ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. L'oggetto della vicenda è l'acquisto, ve lo ricordate, dell'appartamento con vista sul Colosseo. Scajola doveva rispondere del reato di finanziamento illecito. Si torna a parlare della terra dei fuochi. A me la camorra fa schifo e farò di tutto per mettere i malavitosi in galera. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Galletti, che oggi ha incontrato nella parrocchia di Parco Verde a Caivano i rappresentanti dei comitati della Terra dei Fuochi, cioè della zona dei roghi tossici tra Caserta e Napoli. Qui si è stuprato il territorio, di questo stupro è responsabile tutto il paese, ha detto Galletti. Soddisfatto di queste parole del ministro è Don Maurizio Patriciello, sacerdote in prima fila contro i roghi tossici. Ora però Don Patriciello attende i fatti, come spiega al microfono di Paolo Panceri. Il ministro ha detto che i camorristi gli fanno schifo. Questa è la prima volta che lo sento dire in questo modo così bello e esplicito. Però dietro ai camorristi si sta nascondendo troppa gente in questo periodo. Gli industriali che hanno fatto affari con i camorristi, poi i politici che in questi anni hanno permesso tanto scempio. E quindi il ministro ha detto una cosa molto bella. Questo è un problema nazionale, perché tutta la nazione ha provveduto ad avvelenare la Campania, e quindi è un problema nazionale. Ma i fatti quali possono essere? Intanto questa legge che c'è stata è una legge che deve essere migliorata, insomma. Il ministro della sanità deve anche lei fare un atto di umiltà e venire un poco qua, che le sarà portata nelle tante case di persone ammalate o di persone che hanno avuto tanti bambini morti per leucemia o cancro. Ancora la cronaca, il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopellitti, è stato condannato come ex sindaco di Reggio Calabria a 6 anni di reclusione per abuso e falso e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per le vicende legate alle autoliquidazioni dell'ex dirigente comunale Orsola Fallara, suicidatasi nel 2010. Il PM aveva chiesto 5 anni. Per chiudere c'è il calcio, e con l'Inter Udinese che si gioca a San Siro si completa questa sera la 30ª giornata di Serie A, Giovanni Capuano, no? Così completiamo il quadro. Si completa con una partita che dovrebbe dare degli spunti. Dico dovrebbe perché siamo al 28esimo del primo tempo, il risultato è 0-0 e si gioca su ritmi bassissimi, davvero da fine stagione, con pochissime emozioni, non una serata memorabile fin qui. Si fa fatica a trovare un paio di conclusioni verso i due portieri, che in realtà sono stati impegnati soltanto in due respinte su traversoni, prima Andanovic dopo pochi secondi di gioco e poi i Scuffetti. In questo momento c'è un calcio d'angolo per l'Udinese, dicevo, gara che invece dovrebbe dare degli stimoli soprattutto all'Inter, che vincendo questa sera potrebbe approfittare della caduta ieri sera della Fiorentina in casa contro il Milan e portarsi soltanto a un punto dal quarto posto, che vale l'accesso diretto ai gironi di Europa League, e dunque significa un'estate meno complicata, una preparazione più semplice da gestire, e questo è molto importante nella programmazione della prossima stagione, soprattutto in un'estate come questa che ha i mondiali mondiali come suo appuntamento, mondiali che porteranno via a lungo i giocatori. Invece sembra che fin qui non ci sia alcuno stimolo, risultato 0-0, vi dicevo pochissime emozioni, giusto per darvi due informazioni. Sulle squadre che sono in campo, nell'Inter non ci sono novità, davanti ci sono Icardi e Palacio, l'Udinese invece a sorpresa ha tenuto fuori Bomber di Natale, al suo posto gioca Muriel, in tribuna ci sono Toir e Moratti, Toir certamente non si sta divertendo, ma gli va bene perché una partita come questa seguita a Giacarta per lui significa una sveglia alle 2 di notte, probabilmente avrebbe fatto fatica a rimanere sveglio e con gli occhi aperti vista questa prima mezz'ora sullo 0-0. Beh, insomma, si può fare questo e altro il suo ruolo. Grazie Giovanni Capuano, adesso vi lascio gli aggiornamenti per chi viaggia, poi ci sarà la ministra Giannini dell'istruzione più tardi, tra poco parleremo invece di politica interna dell'incontro Obama-Renzi. E vedo a proposito del sondaggio che ha fatto Data Media, di cui vi riportavo i risultati, per il 58,1% degli italiani sarebbe meglio uscire dall'euro, vedo alcuni vostri messaggi, dice Emanuele, uscire dall'euro, uscire dall'Europa sì, dall'euro no, poi invece qualcun altro dice no, teniamoci l'euro. Luigi da Padova, uscire da Eurolandia è un suicidio, la moneta comune aiuta all'unificazione dell'Europa, e come? Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi con voi e vi rammento quali sono state le notizie principali della giornata. Obama in visita a Roma, al Papa, poi Renzi, Napolitano dice mi fido di Matteo Renzi, yes we can, dice il Presidente del Consiglio, vale pure per noi qui in Italia. Poi un'ora, vi dicevo, di Obama con il Papa che ha detto commosso, gli Stati Uniti impazzirebbero per lui. Ucraina, 100.000 soldati russi alle porte, allarme di Kiev, arriva intanto il piano degli aiuti dal Fondo Monetario Internazionale. Scuola, la ministra Giannini ha presentato in Senato le linee guida dell'istruzione, i precari ha detto sono 500.000 e come vi dicevo sarà qui effetto notte tra poco. Per quanto riguarda l'industria, la ministra Guidi annuncia la costituzione di una task force, arriva una notizia dalla Calabria, è stato condannato a 6 anni il presidente della regione Scopelliti, clamorosa svista al largo delle Canarie, è precipitato un aereo, poi invece la task force d'emergenza si corregge, dice che in realtà era una nave. Per il calcio, l'avete sentito, a San Siro, per completare la 30ª giornata di Serie A, si gioca Inter-Udinese. Bene, adesso tra pochissimo sentiremo allora Antonio Pulito, direttore del Corriere del Mezzogiorno, editorialista del Corriere. Abbiamo raggiunto Antonio? Eccomi. Eccolo qui Antonio. Senti Antonio, allora Obama ha detto sono favorevolmente impressionato dall'energia di Renzi e quindi probabilmente ha deciso di mangiare questa sera nello stesso ristorante dove mangia Renzi per capire dove tira fuori, come si nutre per esprimere tutta questa energia, anche se Obama diciamo non ne ha molta meno, essendo presidente di uno stato un po' più grande e potente dell'Italia. Insomma, ci è sembrato almeno apparentemente contento, un buon incontro è stato. Antonio, tu hai preso freddo nel frattempo per inseguire Obama, sì, per caso? No, è che l'energia invece a me scarseggia. Impressionato, è la stessa espressione che usò la Merkel. Infatti, è impressionante evidentemente Renzi. Perché diciamo, c'è un codice di comportamento, di parole da usare, comunque... l'energia di Renzi impressiona tutti noi, quindi capisco che abbia impressionato anche Obama. D'altra parte bisogna ricordare che Obama, questo è il quarto capo di governo italiano che incontra da quando è stato eletto. Fu eletto, c'era Prodi a Palazzo Chigi, poi non fece in tempo a insediarsi che Prodi già era caduto, e poi ha fatto Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta e adesso Matteo Renzi, quindi insomma diciamo che è abituato al carattere un po' effimero della politica italiana. Credo che il rapporto più profondo che abbia stabilito in questi anni sia piuttosto quello con Napolitano, a cui riconosce spesso una leadership morale, come espressione sua, oggi ha detto l'Italia è fortunata ad avere una persona come lui al vertice delle istituzioni. E poi lì da qualche anno, per cui è lì da qualche anno Napolitano, quindi almeno un punto di riferimento saldo, certo. No? Perché gli altri cambiano. Dimmi, scusa Antonio Pulito. No, è vero. Per quanto riguarda Renzi, naturalmente tutta la comunità internazionale spera nelle riforme di Renzi, perché diciamo l'Italia è un paese stagnante e in recessione costante che diventa un problema per l'Europa, è una cosa che non vuole nessuno. D'altra parte Obama è più vicino a Renzi sul tema delle politiche economiche espansive, l'amministrazione americana ha più volte anche esplicitamente criticato l'Europa della Merkel per una politica di eccessiva austerità, quindi in questo senso sicuramente Renzi avrà trovato una persona che lo capisce. Diverso è il caso forse cruciale di questa visita della spesa militare, dove invece noi italiani siamo un problema. Infatti Obama ha detto, insomma, che c'è stata profonda sintonia su tutto, su questa cosa qui ha dovuto un po' frenare almeno le ultime dichiarazioni del governo Renzi sugli F-35, poi ieri la ministra degli esteri Mogherini è stata un po' più moderata, però si parlava anche della ministra Pinotti della difesa di tagli alla spesa per la difesa, per fare un bisticcio di parole. Invece Obama ha detto no, ognuno deve fare la propria parte. Ma secondo te, Antonio Polito, visto che gli F-35, se non sbaglio, vengono fabbricati negli Stati Uniti, noi dobbiamo comprarci gli F-35 per difenderci da eventuali attacchi nemici o per difendere l'occupazione negli Stati Uniti? Ma insomma, ogni paese fa una politica estera anche di difesa degli interessi nazionali, del resto anche noi italiani vediamo sistemi di armamento in tutto il mondo, anche con un certo successo. D'altra parte la Finmeccanica anche negli Stati Uniti. Quindi ci dobbiamo un po' scambiare i favori, tra virgolette, se così possiamo dire. Insomma, si chiama commercio internazionale, avviene anche per i sistemi di armamento. Certamente gli italiani hanno preferito gli F-35 all'Eurofighter, che invece è un progetto europeo, da questo punto di vista mostrando una certa fedeltà atlantica. C'è un interesse nazionale, come ovvio, degli Stati Uniti agli F-35, però c'è un interesse ancora più grande ad avere un'Europa che sia un pochino più capace di difendersi da sola. Oggi Obama ha detto che l'America spende, il più grande esercito del mondo, spende il 3% del PIL per la difesa, l'Europa spende l'1% del PIL. E molto spesso le tensioni per la stabilità e la pace mondiale avvengono in Europa o nei dintorni, per esempio l'Ucraina. Quindi Obama dice due cose che secondo me sono vere. Primo, la libertà ha un costo, per difendere come dire, l'indipendenza e la libertà di un paese bisogna anche spendere un po' per la difesa. Secondo, dovete ridurre la vostra dipendenza energetica da Mosca, perché sennò rischiate di diventarne ostaggio. Ma adesso ti vorrei far sentire anche, Antonio Polito, qualcuno dei passaggi che ha fatto Renzi in conferenza stampa o nel discorso con Obama, per esempio quando ha ripreso lo slogan famoso di Obama, Yes We Can. Al Presidente Obama vorrei dire con grande forza che quel messaggio che ha caratterizzato The First Message, Yes We Can, e che tutti noi ricordiamo come un messaggio di possibilità e potenzialità, oggi vale anche per noi in Italia. Perché in Italia finalmente vogliamo dire che è possibile cambiare le cose senza bisogno che ce le chieda qualcuno dall'esterno. Allora il cambiamento, le riforme strutturali che noi stiamo facendo sono le riforme che possono tornare a dare un elemento di speranza che le cose davvero cambino. E ha detto Obama, io mi fido delle riforme di Renzi, è coraggioso, sicuramente servirà a migliorare l'Italia. Sono anche queste un po' delle frasi di circostanza, secondo te di rito, insomma, non perché, oppure ha persuaso veramente il Presidente Obama a Renzi, visto che ha detto I'm impressed, insomma, sono impressionato. Sì, beh, come dicevamo prima, insomma, è un trattamento di cortesia innanzitutto, che forse Obama non ha riservato al solo Berlusconi, col quale c'era un po' di freddezza, credo anche in ragione della battuta di Berlusconi su Obama abbronzato, che in America fu un po' criticata. Però c'è anche, come dicevo, una vera speranza che l'Italia si rimetta in moto. Questo desiderio, questa speranza ce l'abbiamo non solo noi, ma anche i nostri partner internazionali. Insomma, un'Italia debole, un'Italia sull'orlo della deflazione, un'Italia nei guai dal punto di vista del debito da ripagare, diventa una mina vagante per l'economia mondiale. Siamo troppo grandi per essere salvati. e troppo piccoli per salvarci da soli. Questo forse è il nostro dilemma. Antonio, ti voglio far sentire ancora, abbi ancora un po' di pazienza, Renzi, che a proposito invece della questione energetica, no? Perché parlando di Ucraina e di Russia, Obama ha posto l'accento sul fatto che ognuno, visto che tanta parte di energia viene anche lì, no? Il gas per esempio, è bene che ogni Stato cerchi di approvvigionarsi con fonti energetiche alternative. Dice, noi negli Stati Uniti l'abbiamo già fatto, sentiamo cosa dice Renzi. Noi possiamo stare... Possiamo affrontare anche una eventuale crisi energetica. Abbiamo le risorse per farlo. E abbiamo, ricordiamocelo sempre, sì un grande debito pubblico, ma un risparmio privato che è 4 volte il debito pubblico. Abbiamo, risparmio pubblico e privato, abbiamo, diciamo, un patrimonio, più correttamente, che è 4 volte il debito pubblico. Abbiamo un avanzo primario negli ultimi anni costante, tranne il 2009. E abbiamo dei numeri di crescita economica che non ci rendono la Cenerentola dell'Europa e delle istituzioni internazionali. Usciamo da questa subalternità culturale per cui sembra che la nostra posizione debba essere dettata da un mero calcolo e interesse di natura economica. Ho riguardato tra l'altro adesso un'immagine su, mi pare, la 7 del saluto tra Obama e Renzi dopo la conferenza stampa insieme, e ho visto che Renzi voleva quasi baciarlo e Obama l'ha tenuto un po' a distanza mettendogli la mano sulla spalla, così un fatto di colore, visto che dicevamo un po' in rituale, no, Renzi, Antonio Polito. Però a proposito, sì, non so se volesse baciarlo. Ma ho visto che si è avvicinato un po' con la testa quando si vuole baciare sulle guance. Sì, no, dico, non so giudicarlo, ecco. Comunque, continua a voler risollevare Renzi l'orgoglio dell'Italia, a dire noi non siamo qui per fare riforme perché ce le chiede qualcuno, perché abbiamo questo ruolo, non dobbiamo avere il ruolo subalterno. Quindi ha dato questo messaggio chiaro anche ad Obama. Poi vedremo che cosa si riporterà a casa Obama di questa esperienza, di questo incontro. Beh, insomma, su certe cose ha ragione, quella affermazione finale sui numeri della crescita economica, no, perché dal punto di vista della crescita noi siamo la Cenerentola dell'Occidente, di tutti i paesi dell'Ocse, da 15 anni ormai, non è una cosa soltanto dell'ultima recessione, quella che è cominciata nel 2008, è il nostro problema, cresciamo troppo poco. E questo fa aumentare anche il debito in proporzione sul PIL, no? Perché ovviamente crescendo poco e il debito invece cresce al solito ritmo, la proporzione aumenta. Quindi è il nostro problema fondamentale. È vero che dal punto di vista dell'aggiustamento dei conti abbiamo fatto grandi cose, perché è verissimo che l'avanzo primario è consistente, è secondo solo a quello della Germania in Europa, ma abbiamo questo problema però che ci schiaccia, questo problema del debito pubblico, che è risolvibile solo con una forte, rapida e alta crescita. Antonio, approfitto della tua presenza per chiederti una cosa proprio negli ultimi 35 secondi. Sai che c'è tanto scompiglio dentro Forza Italia, anche in vista delle liste per le europee. Hai idea di Berlusconi che cosa abbia concluso? Alla fine ha riunito per la prima volta il comitato di presidenza, fresco di nomina, no? Di 2 o 3 giorni fa, per affrontare le questioni più dirimenti. Una battuta su questa cosa, voglia di farla? Ma io adesso oggi ho fatto altre cose, ma se ho capito bene da quello che mi è stato detto, in realtà sarebbe stata concessa la deroga a quei maggiorenti che possono postare più preferenze, per esempio Fitto in Puglia. Ciò non toglie che il partito di Berlusconi è un po' nella confusione, insomma, naturalmente moltiplicata dal fatto che il 10 aprile si saprà qual è il grado di libertà personale di cui godrà Berlusconi. Certo, un partito diretto da chi senza Berlusconi è una vera e propria incognita, e alle elezioni europee a me pare che oggi Renzi e Grillo siano i due contendenti unici che si vedono, mentre il partito Berlusconi è un po' sparito. Però Berlusconi ci ha abituato a molte sorprese elettorali, quindi staremo a vedere. Grazie Antonio Polito, grazie, buona serata. Grazie a voi. Ciao Antonio. Bene, vedremo tra poco se riusciamo a raggiungere anche il nostro Platero, corrispondente a New York, che dovrebbe essere al seguito di Obama, probabilmente sarà a cena con lui o con tutto il seguito di giornalisti, quindi ci prendiamo una pausa di pubblicità e poi dovremo raggiungere invece la ministra Giannini. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, sempre con voi. Tra poco avremo in linea la ministra dell'istruzione Giannini, ma vi ricordo prima, se aveste acceso la radio in questo momento, quali sono i fatti principali della giornata. Naturalmente l'incontro a Roma di Obama, che dice mi fido di Renzi, ho fiducia nelle riforme italiane. Stamattina va incontrato il Papa, poi a pranzo da Napolitano. Scuola, la ministra Giannini presenta in Senato le linee guida sull'istruzione, tra poco sentiremo quali sono. Industria, la ministra Guidi annuncia la costituzione di una task force. Clamorosa svista al largo delle Canarie, è precipitato un aereo, poi invece il servizio d'emergenza ha detto scusate, ci siamo sbagliati, era una nave. Per il calcio poi sentiremo gli aggiornamenti per l'ultima partita della 30ª giornata di Serie A, su che sarebbe Inter-Udinese a San Siro. E saluto con molto piacere la ministra dell'istruzione Stefania Giannini, ben ritrovata qui Effetto Notte, ministra. Buonasera a tutti agli ascoltatori. Allora, l'ultima volta che ci eravamo sentite, lei era entusiasta, era neoministra forse da 2 o 3 giorni, entusiasta giustamente del fatto che il neopresidente del Consiglio Renzi, nel suo discorso alle Camere per ottenere la fiducia, aveva dato grandissima rilevanza alla scuola come nessun altro presidente del Consiglio prima di lui. Aveva dato davvero una grande importanza, aveva detto che bisogna investire sulla scuola, sulla qualità della scuola, anche per esempio sulla riqualificazione edilizia, perché la scuola, dice, è il vero vivaio, la vera possibilità di cambiare questo paese, di renderlo un paese migliore. Allora lei oggi ha presentato, già le stava preparando in Senato, le linee guida del suo dicastero, no? E punti principali, leggevo, sono semplificazione, programmazione, valutazione, internazionalizzazione. Ma mi chiedo, dobbiamo parlare inglese o italiano? Perché ho capito anche che lei vuole che a scuola si parli inglese magari da madrelingua. Ma io credo che la madrelingua italiana vada non solo salvaguardata ma promossa, perché è uno dei capitali più grandi che la storia ci ha consegnato. Ma se vogliamo che i nostri giovani siano veramente internazionali, come tutti i ragazzi europei, tutti i ragazzi del mondo, dobbiamo favorire un bilinguismo diffuso, e questo significa insegnare la lingua straniera, principalmente l'inglese, con i metodi efficaci che in molti paesi si usano, perché purtroppo finora in Italia non siamo ancora riusciti ad adottare. Siamo quelli un po' più indietro, no? Nell'inglese, sempre un po' maccheronico il nostro inglese, un po' l'Alberto Sordi per molti versi ancora. Ma sa, ci sono ragioni storiche, insomma non siamo stati lì paese di contatto linguistico se non nella storia recente, per fenomeni migratori peraltro e non per altri motivi. Ma soprattutto, ecco, e questo è il mio compito, il nostro compito occupandoci di scuola e di insegnamento, si può capire meglio se si riflette che uno, le lingue si imparano da piccoli, è un po' come certi sport, no? Se lei impara a sciare a 30 anni, sì, magari diventa anche una campionessa, ma chissà. Sugli sci di solito si è un pochino più legnosi, e con le lingue più o meno succede la stessa cosa. Secondo, ci sono dei metodi che noi stessi al MIUR stiamo sperimentando e che, sintetizzo senza troppi tecnicismi, significa insegnare le lingue come veicolo per altri contenuti e non solamente come oggetto di studio, cioè non si fa l'ora d'inglese ma si fa la classe d'inglese, e nella classe d'inglese si insegna la storia, la matematica, quello che fanno le scuole internazionali. Se riuscissimo a portare questa visione e questo metodo nella scuola italiana, beh, sarebbe una rivoluzione per le generazioni future, sarebbe veramente un capitale che noi mettiamo in tasca ai nostri figli, anche a quei ragazzi che non sempre hanno alle spalle famiglie che poi li possono mandare, no, più da adolescenti e oltre nei paesi stranieri a imparare la lingua sul posto. Quindi questo è un obiettivo, naturalmente sono consapevole, perché è anche il mio mestiere di fondo questo, che non è facile, non sarà facile, perché implica anche degli investimenti, implica cambiare, diciamo, la formazione degli insegnanti o comunque affiancare agli insegnanti madrelingua, però sono tutte cose che da una sperimentazione specifica possono anche essere, se c'è la volontà politica e la voglia di dare l'apertura a quella che diceva prima lei, l'internazionalizzazione alla scuola italiana. Poi lei oggi, sempre in audizione al Senato, ha confermato l'impegno a ripristinare gradualmente il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole, un'opera di semplificazione normativa, dicevamo, l'ampia rilevanza all'insegnamento delle lingue sin dalla scuola primaria. Poi per la prima volta viene inserito in queste linee programmatiche l'educazione e l'istruzione 0-6 anni, quindi la trasformazione anche dell'asilo nido da servizio a domanda individuale invece a un diritto per bambini e bambine, l'edilizia scolastica e poi poi però ha parlato anche di valutazione degli insegnanti, ha detto che vorrebbe abolire questa storia degli scatti d'anzianità. In che senso? No, abolire non l'ho scritto, non l'ho detto, però ripeto però con molta convinzione quello che penso, cioè che se vogliamo che l'insegnante torni ad essere quello che era fino ad alcuni decenni fa, una figura centrale nella società italiana, quello che merita di essere, ma non per esercizi retorici, semplicemente perché gli affidiamo tutti i giorni la formazione dei nostri figli, io credo che si debba anche pensare a riqualificarne il profilo, no? Sia in termini economici che in termini di prestigio sociale. Lei mi sa dire quale mestiere al mondo, se non prevede una possibile carriera di merito, può avere questa ambizione? Difficile pensarlo. Quindi, come avverrebbe solo, questa valutazione? Non solo invecchiamento nel servizio, e purtroppo, come sempre capita nella vita, anche anagrafico come strumento di miglioramento in carriera, ma funzioni di coordinamento, funzioni di dirigenza per tutti quegli insegnanti, e sono tanti, mi creda, sono tanti. Io non ho mai lavorato con la scuola direttamente, ma all'università mi sono occupata tanto di formazione degli insegnanti, e devo dire sono tanti quelli che si impegnano, ma che lo fanno, come si dice, per passione. La passione è una cosa nobile che soprattutto nell'insegnamento, comunque sempre dall'infanzia fino all'università, va messa, ma non è sufficiente per reggere la motivazione durante il corso della carriera, e non è corretto, secondo me, disegnare un profilo professionale di questa importanza solo su questo base. Quindi come si fa? Si valuta, si danno incarichi differenziati, come succede in tutti gli altri contesti, no? Le immagini quello che succede in altre istituzioni, non solo private, anche pubbliche, no? In cui c'è, voglio dire, capo ufficio che ha maggiore responsabilità di un impiegato, quindi risponde di più, viene pagato di più e viene valutato, almeno così dovrebbe essere, per le responsabilità che assume e che gestisce. La stessa cosa si può e si deve fare con gli strumenti adeguati alla circostanza per i nostri insegnanti. Questo allora significa naturalmente rivedere anche il contratto di lavoro e lo status giuridico. Io guardi, ho detto ai senatori, me lo dirò ai deputati, che questi sono passaggi importanti che un ministro secondo me non deve poter fare in solitudine nel suo palazzo, deve farli di concerto con Parlamento, perché questo è il momento maturo nella società italiana, così come è stato, lei ha detto, io l'ho ascolto con entusiasmo, non potevo non farlo, rivoluzionario, certo. Dire la scuola è la priorità. Può essere rivoluzionario, ma possibile dire vogliamo una scuola diversa, in cui si torni a dire scelgo di fare l'insegnante e non vado a scuola perché non trovo niente di meglio da fare, come purtroppo qualche volta capita. Però, ministra Giannini, scelgo di fare l'insegnante, ma rischio, come in tanti mestieri, di rimanere precario. Lei oggi ha dato anche un numero grosso nell'audizione al Senato, ha detto che il precariato è di circa 500.000 persone. Come le assorbiamo? I precari cosiddetti effettivi sono 160.000, ho scorporato questo dato, però se mettiamo tutte le cosiddette graduatorie di istituto, dove compaiono anche non veri precari, ma che ne so, professionisti che magari non vogliono provare l'esperienza dell'insegnamento e si iscrivono alle graduatorie, si arriva al numero che ha detto lei, purtroppo, poco inferiore. Questo è il frutto di una patologia antica che non siamo ancora riusciti a estirpare. Io non ho nessuna bacchetta magica, sia ben chiaro, e quindi non annuncio proclami di soluzione immediata, dico solo che anche lì, se si avvia un piano pluriennale, non certo di un anno, di assorbimento che restituisca tutto questo personale, parlo dei 160.000, gradualmente nel cosiddetto organico di diritto, quindi che lo faccia, diciamo, diventare una parte del corpo docente a disposizione dei dirigenti scolastici e delle scuole e impiegabile in tutte quelle funzioni che adesso vengono assegnate ai cosiddetti supplenti, si risparmia da una parte e si può assorbire dall'altra. Nello stesso tempo i giovani devono poter entrare a scuola e quindi si deve andare avanti col reclutamento. Un'ultimissima domanda, Ministro Giannini. Ieri abbiamo avuto sia Toccafondi, sottosegretario all'istruzione, sia Scalfarotto, sottosegretario alle riforme, sulla questione di questo kit antiomofobia che il Ministero aveva annunciato di diffondere nelle scuole per combattere la discriminazione, per insegnare che cos'è la diversità, e poi dopo, non so se perché si è arrabbiato Bagnasco, per quali altri motivi, insomma, è stato bloccato. Come mai? Che ne pensa di questa cosa? No, in realtà, di là della reazione del Cardinale Bagnasco, questo è un tema che abbiamo affrontato prima, mi è stato messo in evidenza appena entrata a Viale Trastevere, perché fermo restando, almeno nella mia visione, che questo sia un tema importante che deve essere affrontato in maniera serena, diciamo, e laica, dove con laica intendo no, senza pregiudizi né dall'una né dall'altra parte, anche nella scuola. Ecco, quello che è avvenuto è che è stato messo e diffuso, almeno in una parte delle scuole, un opuscolo, diciamo, che non è stato curato dal Ministero dell'Università, è stato curato da un altro dipartimento che aveva anche tra le sue potenzialmente questa funzione. Sempre e del devo ministero. Dire, io non l'ho ancora analizzato, ma insomma da quello che mi si è detto è abbastanza discutibile, anche perché, e qui concludo, è frutto di una traduzione da un'altra lingua e da un'altra cultura, e questi temi così insomma delicati vanno sempre trasferiti con una certa, no, con una certa attenzione al contesto culturale in cui si possono dire le stesse cose con la stessa volontà di chiarezza, ma con una attenzione culturale, interculturale al contesto. Questo non è avvenuto, quindi noi ce ne occuperemo quanto prima. Quindi non si rimanderà a oltranza, ci sarà questa cosa, ma più sotto la vostra supervisione. Certo. Grazie Ministro Giannini, buon lavoro allora. Grazie a lei, buona serata. Grazie, a presto. Adesso sentiamo quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia, poi continuiamo anche con i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Note a proposito del sondaggio sull'euro che vi citavo prima. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, avete appena sentito la ministra Stefania Giannini, ministra dell'istruzione, che oggi ha presentato in Senato le linee guida sull'istruzione, ma vi ricordo anche naturalmente le altre notizie con Obama a Roma, che ha incontrato Renzi, ha detto mi fido delle sue riforme, ho fiducia nelle riforme italiane, e ha incontrato naturalmente Napolitano a pranzo, e il Papa questa mattina ha detto che è stato un incontro meraviglioso. Per l'industria la ministra Guidi annuncia la costituzione di una task force, e poi l'avete sentito dalla Calabria la notizia, è stato condannato a 6 anni il presidente della regione. Per il calcio poi ci aggiorneremo sulla partita Inter-Udinese a San Siro che chiude la 30ª giornata di Serie A. Poi adesso, come sempre, il nostro spazio dedicato all'Europa, visto che ne parlate anche nei vostri messaggi, visto che poi il 25 maggio si vota, questa volta ci sarà Guido Crosetto di Fratelli d'Italia. Europa 24 notte. Verso le europee. Saluto Guido Crosetto. Buonasera Crosetto. Buonasera a lei. Fondatore di Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, coordinatore nazionale del partito, che in realtà, Crosetto, è Fratelli d'Italia AN. Qui strabordano le nostalgie praticamente, da Forza Italia, Alleanza Nazionale, a volte ritornano, ma qui ne ritornano spesso. Come mai? Vabbè, non è a volte ritornano, è stata una scelta fatta da noi per incorporare in Fratelli d'Italia anche una parte di quella storia del centrodestra e della destra che è stata importante per questo paese. Cerchiamo in qualche modo di rappresentando un centrodestra alternativo agli altri partiti che fanno parte. Crosetto, lei sa, a proposito di destra ma non solo, che la notizia politica europea di questa settimana praticamente è il grande successo del Front National di Marine Le Pen in Francia, no? Partito di estrema destra, anche se Marine Le Pen preferisce definirlo patriottico, che è caratterizzato soprattutto dal fatto di essere anti-europeista e anti-euro. Il Movimento 5 Stelle ha esultato, ha detto però noi non abbiamo nulla a che fare con Marine Le Pen. La Lega di Salvini ha detto siamo ben felici di allearci, di fare qualcosa insieme con Marine Le Pen per le europee del 25 maggio. E voi di Fratelli d'Italia AN? Ma Maria Pena si presenta in Francia, noi dobbiamo presentarci in Italia, no? L'ho detto anche a Salvini. Cioè, messo che io era sfuggito questo particolare a Salvini. No, per cui non è che poi era una comunanza di intenti, voleva dire forse. No, beh, la comunanza di intenti sull'euro mi ricordo, se lei si ricorda le mie battaglie sul fiscal compact in tempi in cui non le faceva nessuno in questo paese, continuo a dire queste cose inascoltate, qui faremo anche questa battaglia. Il tema che io non considero un dire che Marine Le Pen in Francia è un movimento di estrema destra, significa non vedere dove ha preso i voti, perché li ha presi dalle banlieue parigine agli agricoltori, dagli artigiani. Sì, anche nell'enclave degli operai, no? Mi sembra. Soprattutto, sì. Per cui mi pare ridurre alla classificazione destra o estrema destra addirittura quello che sta succedendo in Francia mi sembra sbagliato. E lo stesso discorso vale in Italia, cioè ormai i termini destra e sinistra spaiono di fronte alle interlocuzioni che ci vengono dal mondo e dall'Europa. Non so se ha visto un sondaggio di Data Media Ricerche per il Tempo, per il giornale Il Tempo, secondo il quale il 58,1% degli italiani sarebbe positivo, per il 58,1% uscire dall'euro. Voi, come Fratelli d'Italia N, volete uscire quindi dall'euro? Sì, noi l'abbiamo detto chiaramente al nostro congresso, l'abbiamo discusso ampiamente. Penso che l'uscita dall'euro possa essere fatta, pur rimanendo in Europa, come fa un grande paese come la Gran Bretagna, come fa la Polonia, come fanno altri paesi, perché in questo momento le regole e la politica monetaria, il ruolo della Banca Centrale così costruita, non può che indebolire alla lunga ancora di più il nostro paese. Lei pensi solo allo spread, industria italiana identica a industria tedesca, industria italiana paga 3-4 punti in più il denaro senza avere alcuna differenza rispetto alla svalutazione, come può sopravvivere l'impresa italiana alla lunga? Senta, sempre Crosetto, da questa ricerca di Data Media risulta che alle elezioni europee passerebbero soltanto 4 forze politiche italiane, superando lo sbarramento del 4%, quindi il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega Nord. Fratelli d'Italia si attesterebbero al 3%. Che fate? Sì. Vi candidate, certo. Però naturalmente vi presentate. No, certo che ci presentiamo cercando di superare la soglia. No? Cioè, gli scorsi sondaggi ci davano lo 0,5% e ci davano sotto la soglia e abbiamo raggiunto il 2. Se questi valgono lo stesso, facciamo il 2. Certo. Quali sono i punti principali del vostro programma per l'Europa, Guido Crosetto? Ma intanto è dire sì all'Europa, no all'euro. Se vogliamo semplificare il messaggio, nel senso che io credo a un'Europa e a quello di positivo che questa Europa può fare, ma non è quello che abbiamo visto negli ultimi anni, un'Europa senza politica estera, senza politiche sul comuni, senza politiche fiscali, senza alcun legame se non alcune leggi che vengono poste, trattate con le grandi lobby internazionali ai vari paesi e questo vincolo dell'euro che è costituito ha soltanto prodotto in alcune nazioni un divario rispetto ad altre più fortunate e più ricche che stanno crescendo anche a nostro discapito, per cui il tema che noi proporremo all'Europa è una riflessione seria sul futuro dell'Italia a fianco al futuro dell'Europa, non sul futuro dell'Europa che calpesta e distrugge il nostro paese. Bene, allora buona partita a lei Guido Crosetto e a Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Buon lavoro a lei. Grazie. E arrivederci. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. Voglio dare ancora un po' di spazio ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Elias dice: non possiamo uscire dall'euro, siamo tutti sulla stessa barca, si deve andare avanti e cambiare un po' le regole e trattare di un nuovo fiscal compact firmato da Berlusconi e Tremonti, che grazie anche alla Lega dice che faceva parte del governo Berlusconi. Poi Nino: sovranità monetaria, la svalutazione della lira spesso veniva decisa dal ministro dell'economia su suggerimento dell'avvocato Agnelli. Riccardo: la lira per tornare allo SME con il problema antico dei tassi di cambio. Gianfranco dice: rientro nella percentuale di quel che se vado in banca a fare un mutuo per la casa non devo pagare la percentuale di interesse a due cifre. Nicola: uscire dall'euro è facile dirlo, ma che cosa si va incontro? Riccardo: sono solo il 58,1% perché il restante 41,9% degli italiani dall'euro c'è già uscito, nel senso dice che non l'ha più in tasca, ne è uscito. E c'è adesso Giovanni Capuano che ci aggiorna su Inter Udinese. Come sta andando Giovanni? A San Siro? sono ancora fermi sullo 0-0, siamo al settimo minuto del secondo tempo, partita che si è leggermente vivacizzata negli ultimi minuti e anche negli ultimi minuti del primo tempo, quando però a sorpresa è stata l'Udinese ad andare in un paio di occasioni vicine alla rete, una soprattutto con una conclusione di Bruno Fernandes dal limite dell'area di rigore respinta male da Handanovic, è arrivato Badu, il centrocampista dell'Udinese, che ha messo la palla sull'esterno della rete. Lo stesso Badu, proprio in apertura di questa ripresa, è entrato nella difesa dell'Inter un po' come una lama nel burro, poi il suo traversone non ha raggiunto due compagni che si trovavano smarcati a due passi dalla porta. Non è una bella Inter, è un Inter che è stata anche in parte fischiata dal pubblico presente questa sera a San Siro alla fine del primo tempo, è un Inter che non ha creato fin qui occasioni, ci ha provato qualche istante fa Ranocchia con una conclusione dal limite dell'area di rigore, palla però alta sulla traversa, si attende qualche cambio da parte di Mazzarri. Bene, staremo a vedere se Badu lo cambia con Bubu, scusate la battuta, proprio da uno che di calcio ne capisce poco ogni tanto, per alleggerire. Ci sentiamo tra pochi istanti.